Ok, no, perché ti spiego. L'ho provato sulla mia pelle, molti pre, io uno, due, tre ne ho ripresi dentro. Come escono dalla scatola hanno una modulazione veramente, ma veramente chiusa. Sono andato dal menu di, però appunto è relativo ai nuovi apparati, quelli ultramoderni SMD. Per aumentare la modulazione addirittura non c'è neanche il trimmer interno in certi, bisogna andare dal menu di servizio e regolare dei parametri, ci sono dei numeri apparentemente senza senso, basta mettere, andare a fondo scala, praticamente migliora un pochino, ecco un pochino, poi se uno vuole pompare già c'è un amplificato, no, quello invece è vecchio stampo. Chi lo sa, magari il trimmer è rimasto in posizione originale, si potrebbe migliorare. Questo che ho io per esempio è la versione, vabbè adesso c'ho un amplificato messo al minimo, questo è un 3009 omologato con 40 canali, però lo stesso quando escono in fabbrica col mic normale i risultati sono molto risicati, invece mettendo il trimmer della M a manetta migliora molto molto, però questo l'ho lasciato originale, adesso l'amplificato vabbè è un altro conto, dai. È affermativo, io avevo il President Lincoln nuovo, quindi la serie insomma questa moderna controllata da processore, e l'avevo fatta quell'intervento da menu con qualche risultato lo stesso, sì, concordo su quello. No, no, questo secondo me, questo Jackson che io ho comprato tempo fa, tenuto, sembrava che non fosse mai stato tolto dalla scatola ed è nelle condizioni in cui era stato venduto di sicuro. Potrebbe essere anche qualche condensatore che non abbia retto al tempo, insomma, cioè non, il fatto che sia stato usato poco non vuol dire che sia tutto perfetto, però di sicuro non ha modifiche, ecco. E, va bene, dai, è stato un piacere avere qualche controllo e la chiacchierata in generale. Io vi devo chiudere, quindi vi saluto. Se si viene sul 10 c'è sempre qualcuno, mi fa piacere. Buona serata a tutti. K, buon proseguimento di serata. Ci sentiamo qua zona Viale Trento, zona Viale Trento. Adesso i watt sono quelli normali, 4 watt. Vai Antonello. Secondo me c'ha problemi di LC lui, non c'ha altri problemi. Perché l'apparecchio tempo, quell'apparecchio evidentemente è fermo, il trimmer, quindi in pratica conduce o non conduce, il discorso è quello. Tipo quando uscivo io con lo Saturnecco, sono stato una settimana uscendo in testa finché era il trimmer, cazzo. Io ho cambiato il trimmer, l'ho cambiato e uscivo benissimo, il discorso è quello. Secondo me il problema è solamente quello, in quel presidente Jackson. Basta che lui vada nel trimmer, nella LC AMC, lo trova subito, perché tanto lo schema è uguale identico, del presidente a quello del 2009. Non è che ci voglia questo granché. Oh certo, io avevo regolato l'audio per lui, l'avevo regolato per ascoltarlo normale e poi ha ripreso tu, era sparatissimo, quindi in effetti un po' troppo, vabbè lui ha messo anche il mic normale, conta insomma vabbè, tutto da vedere. Comunque quella del trimmer l'ha fatto anche il Connex, quello che avevo dato a te, il 4000 Echo. Il trimmer era un po', forse in certi punti ossidato o impolverato, è bastato girarlo un pochino e avevi risolto anche, mi pare. Qua ti volevo dire Antonio, a proposito di trimmer, allora questi apparati nuovi tipo President, allora in rari casi non hanno nulla dentro, non hanno alcuna regolazione, non hai trimmer, cioè tu vedi un apparato in SMD senza trimmer alcuno, uno dice bella porcheria, però c'hai il menu di servizio dove fai la M, la deviazione FM, tutti i parametri ci sono, diciamo, dai. Però dove volevo arrivare, invece nel presidente McKinley mi pare hai due guadagni microfonici, uno è il vero e proprio guadagno microfonico, l'altro è, aspetta, come lo chiedi, il limitatore, quindi se tu metti il guadagno a manetta ma ti dimentichi di alzare il limitatore, sempre su trimmer microscopici, ti fa quell'effetto pompa, l'effetto pompa è presente quando entra il limitatore, senti. Ho capito già. zitto. Quello vabbè, ti ha messo la cosa delle di quel tipo di apparecchio barico a maletta, lì Saturn Echo, con le 4000 eccetera eccetera, so cosa devo toccare, non è quello il problema. Adesso ho agganciato il Savelta, il microfono amplificato, ecco perché mi senti molto più forte. Il PM40 ho agganciato, a posto del microfono normale. E come ti volevo dire? Niente. Ho visto vari apparecchi l'altro giorno, c'era il CRT 9000, mi sembra 100 euro, non me ne è fregato niente, no, neanche preso, non l'ho neanche comprato. Sai cosa mi sono comprato? Mi sono comprato un telefonino, non so, 70 euro, l'ho preso da MD in offerta. Il cazzo me la frega di comprarmi un baracchino, non ne vale più la pena, hai capito? Va bene, il telefonino, intanto quello che ho io è c'hai il vetrino che è come si dice, ha preso un corpo e quindi a un certo punto è quello che è. Quindi passo da uno all'altro, lo fa ancora come facciamo prima. Conviene più i telefoni, vabbè, i telefoni già lo sai, durano da Natale a Capodanno, quindi 6 mesi non di più. Se tu lavori ti metti le chiavi in tasca e poi ci metti il cazzo in cose, oppure cazzo, stai facendo un lavoro, te la scendi in casa, boh, sei fottuto. Ci vogliono di quei telefoni con la plastica intorno e anche sopra, come si faceva una volta che rimbalzavano quei telefoni antichi, che allora non c'era display, ma c'era solo, disegnava solamente il numero telefonico e basta. Se no, scusa, gli ho alzato il mic, ma se non gli ha dati un salvatelecomando di quelli meliconi, ti ricordi? Te lo fa rimbalzare se ti cade. Eia. Eh beh, i telefonini più di 3 anni non durano, eh. Vabbè, a parte qualche graffietto, però se rimane pienamente funzionale, almeno quello che ho trovato io, 3 anni, non di più, poi comincia piano piano qualcosina a funzionare poco bene, poi peggiora, poi la batteria, non te ne dico, la batteria, dopo 3 anni di ricarica, quindi fai che siano 300 all'anno, insomma quasi 1000 cariche, è esaurita la batteria. Io c'ho il Samsung, quello modello vecchio, lo sbatto a terra, non è mai successo un cazzo. Ed è un, come si chiama, quello vecchio, un Samsung. E figurati, non è mai successo un caso, niente, sei uno di niente, caduto in terra, non sei mai spaccato il vetro, cazzo. Questi che stanno facendo adesso, cazzo, sembra, fatevi coso, se no. Da mettere fine il vetro, cazzo, che gli dai un coppettino con la bottiglia della birra, si apre in due, cazzo. A me la vai. Boh, bisogna avere anche sfiga, Perché allora, quello precedente che avevo io, Antonè, mi è caduto varie volte, non avevo né pellicola né vetro applicato sopra, era proprio il display nudo e crudo, era un Huawei. Una volta mi è volato di mano, tra le tante che proprio mi è volato di mano, e mi è caduto di piatto col vetro sull'asfalto, non si è rotto, tuttora è integro, anche se la batteria ormai è distrutta, no? Si è gonfiato dietro eccetera, quindi adesso vabbè, l'avevo cambiato. Mentre un'altra persona, gli succedeva sempre così, gli cadeva il telefono da 30 centimetri di altezza, tac, dall'angolo partiva la spaccatura, rotto il vetro. Non lo so, te l'ho detto, può essere sfiga da un lato, oppure, non so, il mio aveva il Gorilla Glass, ma non credo, non era dichiarato nelle specifiche. Fatto sa che ha preso certe botte che mi meraviglio che non si sia rotto, quello precedente. Questo di adesso dovrebbe avere Gorilla Glass più la pellicola, che io non volevo, però era applicata di fabbrica, applicata bene, non con le bolle, come fanno le commesse dei cosi, dei centri commerciali. Sì, certo, capito. No, io ho pigliato l'offerta. E dove che c'avete un telefono d'offerta? Dice, se io se lo metti uno, mi ha detto, 69 euro. Ho detto, dammelo veloce, gli ho detto, e così me lo prendo. Infatti, beh, tocco il Samsung, questo lo metto da parte, come risultato bellico, perché non c'è manco un grafico, te lo faccio vedere, Marco. Ma un grafico c'è qua. L'unica cosa che, cioè in pratica non fa più le funzioni di prima, capito? Se vai su Facebook non puoi metterlo perché non te l'accetta più. E nel 2000, non sai come fanno, no, già lo sai. Però come Samsung sono sicuro che conservandolo, intanto c'ho la scatola, c'ho anche, quindi a un certo punto, un domani valga un sacco di soldi, valga, perché lo cercheranno, come i famosi Motorola 8007, mi ricordi? Che erano i migliori, cazzo. Andavi in galleria, cazzo, parlavi tranquillamente con chi cazzo volevi, non c'era bisogno, cazzo, di avere, mettevi qualsiasi simile, funzionava benissimo, cazzo, da dentro la galleria, cazzo. Guarda, ne ho uno di Motorola 8007, era funzionante, però mi ricordo che si spaccavano le plastiche, meno male, anche per conto loro, come aprivi e chiudevi lo sportellino, o si rompeva quello, o si rompeva di lato, era stato fermato solo perché la batteria era morta, però ce l'ho ancora, c'ho la reliquia. E costavano anche, se tu prendevi per esempio un 8009 negli anni, aspetta, forse erano primi anni 2000, un Motorola 8009 era simile all'8007, era il successivo, mi pare che costasse tipo Doshan, l'avevo visto, 2 milioni e mezzo o una cosa del genere, 2 milioni 480 mila lire mi pare, non c'era nemmeno l'euro, pensa. Ci voleva uno stipendio per un cellulare. Io ho avuto anche quello, quando ho fallito coso, scarpa qua, c'è tutto fuori, buttato, come si chiama, ti ricordi quei cellulari che c'erano la cornetta 450, cazzo, quelli ci ha buttato, cazzo, ogni batteria va via, l'ho detto, cazzo. Era una cosa del genere, pesava più di 3-4 kg, pesava, cazzo. Ehi, aspetta, per Marino, se all'ascolto, c'ho il telefono in carica nell'altra camera e mi stanno arrivando le notifiche all'orologio, allo smartwatch, poi le guardo, dai. Antonio, dai, stacco, così mi faccio un'ultima lavatrice, prima che si faccia tardi. Dai, ci sentiamo, dai, in altre occasioni. Stammi bene, saluta Simona, Giovanna e tutti quanti, ok? Ok, dai, a domani, ci sentiamo, dopo domani adesso a casa. Stiamo domani mattina, stammi bene, buon tutto, a risentirci domani.